Questo martedì 17 gennaio, intanto uno sguardo ai titoli di apertura, Il Sole 24 Ore. Draghi, crisi molto grave, agire subito, questo è il titolo di prima pagina. Mentre molti quotidiani si concentrano ancora sulla tragedia della Concordia, ammutinamento per salvare i passeggeri, così titola il Corriere della Sera. E questa vicenda dell'ammutinamento, che è la nuova vicenda che è emersa da ieri, è un po' l'apertura di molti. Repubblica, l'ammutinamento del Concordia, basta, evacuiamo noi la nave. E anche il secolo XIX, gli ammutinati della Concordia. Ritardi e caos, crescono i dispersi, così titola il Messaggero. Per la Stampa, il mistero della Concordia, i dispersi sono 40. Il Fatto Quotidiano, colpa di uno solo. Mentre l'Unità titola Cimitero d'acciaio, per il Manifesto un popolo di navigatori, e c'è la foto del relitto ormai della Concordia messo di traverso. Mentre un'apertura più politica per il Giornale, Sarkozy schiaffo a Monti, mentre Libero sulle liberalizzazioni, buttati 22 miliardi. Una conta angosciosa è anche il titolo di apertura di Avvenire sulla Concordia. E le vedremo tra poco i nuovi dettagli che si profilano anche da un audio di una telefonata, o meglio la trascrizione di una telefonata davvero surreale, tra la capitaneria di porto e il comandante del Concordia, che adesso viene considerato come l'unico responsabile di tutta questa tragedia. Chissà, poi forse si sta anche esagerando nei suoi confronti, ci sarà un'inchiesta, bisognerà capire bene come è andata. Sta di fatto che tutti i giornali invece mettono in prima pagina anche la vicenda che riguarda Adriano Sofri. Adriano Sofri, che è stato condannato come mandante dell'omicidio Calabresi, da sabato di fatto è un uomo libero, ha finito di scontare la sua pena. Gli ultimi anni per una grave malattia era, per la verità, agli arresti domiciliari. E Adriano Sofri ieri, tra l'altro, ha passato il primo giorno festeggiato nel senso la libertà, proprio all'Isola del Giglio, dove ieri raccontava per Repubblica quello che era successo e quello che ha visto. Sofri, fine pena dopo 22 anni. Diciamo che tutti i cronisti sono andati a trovarlo nella sua casa a Firenze. Leggo il resoconto di Fabrizio Roncone a pagina 27 del Corriere della Sera, da Tavarnuzze in provincia di Firenze. In realtà Adriano Sofri non parla, l'unica cosa che dice ai cronisti è, alla domanda come sto, sto a modo mio. Ecco, sì, sto a modo mio. Questa è la risposta di Adriano Sofri, che poi dice ai cronisti: per ora non parlo, magari passate tra qualche giorno che beviamo un caffè. E racconta Roncone: domenica è sbarcato all'Isola del Giglio, ha visto, ha cercato, ha chiesto intorno al gigantesco relitto. Lui, per questa storia cominciata il 28 luglio 88, lui, Sofri, ex leader di Lotta Continua, arrestato con Giorgio Pietrostefani, Ovidio Bonpressi e Leonardo Marino, per tutti l'accusa di essere responsabili della morte del commissario Luigi Calabresi. Marino subito racconta e confida, ammette di essere stato l'autista dell'automobile servita per l'attentato, spiega che a uccidere è stato Bonpressi, e Marino dice: Sofri e Pietrostefani sono i mandanti. Sofri, che si è sempre detto innocente, non ha mai chiesto la grazia, negli ultimi anni appunto li ha passati a casa di fatto per una gravissima e rarissima malattia, la sindrome di Behrhav. La prima telefonata dopo la libertà al figlio Luca, poi una frase laconica al fratello Gianni: ciao, solo per dirti che sono un uomo libero. In serata è arrivata anche all'ANSA la dichiarazione di Gemma Capra, la vedova del commissario Calabresi. Ormai da molto tempo, ha detto, nessuno era più in carcere per l'omicidio di mio marito e questo passaggio non cambia i miei sentimenti. Ho sempre creduto che la verità e la giustizia sarebbero state il risarcimento più grande. Siamo riusciti a ottenerle entrambe e le sentenze sono state rispettate. Oggi Adriano Sofri, che scrive per Repubblica e anche ha una rubrica quotidiana, Piccola Posta, sul Foglio, proprio sul Foglio torna a scrivere del Giglio, Fra le tante eccellenti persone che ho incontrato all'isola del Giglio, dove ebbi indimenticati trascorsi estivi, c'è il signor Aristide, anni 82, imbarcato a 16 senza libretto fino a diventare Nostromo. Alla conversazione partecipa anche Giovanni Andolfi, già marittimo anche lui, con cui condivisi certi trascorsi estivi, compreso un blocco del porto del 76 per protesta contro l'invio di Freda e Ventura. E commenta che, secondo il dizionario, il Nostromo è l'uomo rude che guida la ciurma, ma Aristide è un tipo calmo e mite. Insomma, inizia così il resoconto di tutto ciò che ha visto all'isola del Giglio, il racconto di questo incontro con Aristide, del quale conclude Adriano Sofri: sta andando a trovare suo figlio a Roma e se lo incontrate fatevi raccontare il resto della storia. Insomma, racconta, e per il secondo giorno consecutivo Adriano Sofri, che non parla della sua vicenda personale per ora, racconta invece di ciò che ha visto all'isola del Giglio. Giusto perché per attinenza di argomenti, sempre di aule giudiziarie si parla. Io ho letto questa notizia sul Messaggero e mi sono chiesto: ma che numero di condanne è arrivato Fabrizio Corona? A pagina 15 non si capisce. Il fotografo Fabrizio Corona, io forse con un terzo di queste condanne sarei preoccupatissimo che mi bussino alla porta e mi portino in carcere. Corona condannato a 5 anni, estorse denaro al calciatore Trezeguet. 5 anni di reclusione per estorsione e utilizzo illegittimo di dati, più interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ecco la pena inflitta dalla Corte d'Appello di Torino a Fabrizio Corona, accusato di aver chiesto e ottenuto 25.000 euro, poi mai restituiti, all'ex calciatore della Juventus David Trezeguet. L'accusa è sempre quella. L'ha fatto pedinare, Trezeguet si è appartato con una ragazza che aveva conosciuto, le ha piazzato i fotografi all'entrata dell'appartamento, all'uscita la mattina, e poi gli ha detto: se mi dai 25.000 euro non pubblichiamo le foto. Ha chiesto e ottenuto 25.000 euro per evitare la diffusione delle fotografie. Per l'accusa si trattava di un caso di recidiva, mentre per la difesa l'inasprimento della pena è stata inasprita in appello, è dovuto al fatto che si tratta di Corona. Eh sì, è la solita persecuzione per la difesa nei confronti di Fabrizio Corona, condannato a 5 anni e sempre libero. Non lo so, è un po' il mistero Corona. 24 mattino. Sono le 7:35 minuti, allora dalla lettura dei quotidiani, cari ascoltatori. Intanto, certo, ancora la vicenda della tragedia della Concordia è in primo piano sui giornali. Gli elementi che emergono oggi dai quotidiani, dalla lettura, è intanto il mistero sui dispersi, perché ci si è concentrati tutti sulla dinamica, ma quanti sono ancora i dispersi? Beh, secondo i giornali c'è molta incertezza, il mistero dei 12 turisti tedeschi dispersi ora sono diventati 29, così titola il Corriere della Sera a pagina 10. Ma sentite La Stampa in prima pagina, anche il titolo di apertura: il mistero della Concordia, i dispersi sono 40, ed è Grazia Longo che firma l'articolo, che inizia così: se finora ci siamo arrovellati sul perché il comandante della nave affondata di fronte all'isola del Giglio non abbia lanciato in tempo l'allarme, oggi abbiamo un altro inquietante interrogativo: perché la Costa Crociere ha fornito un elenco incompleto dei dispersi? Il comunicato ufficiale della compagnia indica 16 persone scomparse, ma non è così, non è questa la verità. La lista in mano all'unità di crisi coordinata dal prefetto Giuseppe Linardi contiene almeno 40 nomi. Avete letto bene, 40, di cui 10 sono italiani. E la procura guidata da Francesco Verusio sta indagando sui dati forniti dalla Costa. Allora, perché i numeri diffusi sono molto più bassi? Per non creare allarmismi? La domanda sfiora il paradosso e l'assurdo. Beh, certo, c'è l'incertezza intanto su quanti siano i dispersi a questo punto, quanti non risultano. Ci sono appunto anche questi 12 turisti tedeschi che in teoria non erano segnalati sulla nave. In realtà dalle autorità tedesche si fa sapere erano a bordo di quella nave. A bordo della nave dove, man mano che passano le ore, passano i giorni, si è capito, è successo il finimondo. L'ultima accusa, quella nei confronti del comandante Francesco Schettino, è quella di avere subito un ammutinamento, cioè di fronte alla sua incertezza, al non sapere che fare, pare che gli uomini, alcuni uomini della catena di comando dell'equipaggio, abbiano deciso di far evacuare la nave ancor prima che lui desse l'ordine. Proprio di fronte alla sua, non so come definirla, incertezza, incapacità di eseguire il ruolo del comando in quel momento. E poi c'è Marco Imarise, Francesco e Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera, in cui in realtà è quest'ultimo, Fabrizio Caccia, pagina 6, raccontano anche tanto come sta vivendo Francesco Schettino. Ieri è andato a trovarlo un consigliere regionale dell'Italia dei Valori, Marco Manneschi, è andato in visita al penitenziario e guardato a vista il comandante, anche nel timore che possa compiere qualche gesto in consulto. E c'è solo questa frase che viene riportata dal Corriere della Sera che avrebbe detto Schettino: la voce della mia coscienza grida più forte di tutto. E il commento di Fabrizio Caccia è: sarà. Sarà perché c'è questa telefonata, la conversazione, la trascrizione di una conversazione avvenuta a un certo punto, quando era passata mezzanotte, quando già era scoppiato il caos, quando la gente stava evacuando la nave e quando il comandante di fatto era insieme al suo secondo in comando, il greco Dimitri Christidis, che ora rischia di finire indagato anche lui, fan sapere al Corriere, è già su una scialuppa. Al che la capitaneria di porto dice: come, comandante, lei ha abbandonato la nave? Chiede incredulo l'ufficiale della sala operativa, e Schettino, che in quel momento si è tradito dicendo sono su una scialuppa, prova a rimediare: no, ma che abbandonata, sono qui. All'1:46 la capitaneria di porto è ultimativa: allora lei adesso torna a bordo, risale la bigaccina, cioè la scaletta, e torna a prua e coordina i lavori. Ma Schettino non risponde. E ancora l'ufficiale: lei mi deve dire quante persone ci sono, donne, bambini, deve coordinare i soccorsi. Comandante, questo è un ordine, adesso comando io, lei ha dichiarato l'abbandono della nave, va a coordinare i soccorsi a prua, d'accordo? Ci sono già dei cadaveri. A quel punto Schettino deve avere, racconta Caccia, la pelle accapponata, con un filo di voce chiede: quanti? Dovrebbe dirmelo lei. Risponde il sottufficiale, l'ufficiale da Livorno, che ormai lo disprezza. Cosa vuole fare, comandante? Vuole andare a casa a dormire? Lo irride e poi conclude: lei ora torna sopra e mi dice che cosa fare. Va bene, sto andando, risponde Schettino, ma non obbedisce ed è l'ultima definitiva bugia. Risale il molo del Giglio, prende un taxi e va all'albergo Bahamas. Questa è la ricostruzione secondo il Corriere della Sera. Beh, se così, davvero incredibile. Paolo Colonnello sulla Stampa a pagina 6 racconta che c'è anche il mistero del transponder, quello che fa sapere dove si trova la nave in qualsiasi momento, che per un quarto d'ora circa ha un buco. E il quarto d'ora è quel quarto d'ora in cui c'è l'impatto al largo, o al largo, non molto al largo, dell'isola del Giglio. 7 minuti prima dell'impatto è stato staccato il sistema satellitare, è stato riattivato 8 minuti dopo. La stranezza, e questa è l'ipotesi della procura, è che il comandante abbia dato l'ordine di disattivare il transponder per evitare che rimanesse traccia della cosiddetta manovra dell'inchino, no? Quella del saluto verso chi? Ma verso forse un ex comandante della Costa che era del Giglio, che è del Giglio, che in realtà in quel momento era Grosseto, che secondo alcuni era addirittura al telefono durante l'impatto con il comandante. Cioè pare che il comandante Schettino, che ha smentito peraltro questa telefonata, abbia chiamato l'ex comandante della Costa, originario del Giglio, durante la manovra dell'inchino, dicendo: vedi come siamo vicini. E quest'altro pare che gli abbia risposto: guarda che io non sono al Giglio, sono a Grosseto. Ma abbia addirittura sentito in diretta l'audio dello scontro della nave con gli scogli. Mentre su Facebook c'è questo post, proprio nel momento dell'impatto, della sorella del capo maître che era a bordo e che è dell'isola del Giglio, e che la sera dell'impatto scriveva su Facebook: tra poco passerà vicina vicina la Concordia di Costa Crociere. Questa Patrizia Tievoli, la sorella del maître, insomma, che attendeva evidentemente questo gesto dell'inchino, il saluto dell'inchino da parte della nave. Sta di fatto che, insomma, queste sono le vicende che più emergono, sempre ricostruzioni c'è anche, e vabbè, da segnalare ci sono i turisti del macabro. Lo racconta pagina 8 il Corriere della Sera con Marco Gasperetti. Sono sempre di più le persone che stanno affollando l'isola del Giglio, così per vedere, fotografare col binocolo, con le macchine fotografiche, il relitto, con i gigliesi che dicono non avevamo mai visto tanti arrivi a gennaio, c'è gente che arriva qui, noleggia le barche, vuole vedere da vicino quello che è successo. Vabbè, c'è anche questa attrattiva macabra, come in tutte le tragedie. Lasciamo questa vicenda, di cui tra l'altro si occuperà Oscar Giannino oggi alle 9. Veniamo alle questioni politiche, economiche, con, beh, certo, su tutti, ed è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, c'è il monito del presidente della BCE Mario Draghi, che ieri, con questa espressione in inglese very grave, molto grave, ha definito la situazione economica, la crisi è molto grave. Racconta Beda Romano a pagina 2 del Sole 24 Ore. L'invito all'Europa da parte di Mario Draghi è quello di dotarsi di strumenti anticrisi e ridurre la dipendenza dal rating. Sta di fatto che ieri ancora l'agenzia di rating Standard & Poor's in particolare ha anche abbassato di un gradino dalla AAA alla AA+. Un declassamento dunque per il fondo Salva Stati, un downgrade che era abbastanza annunciato, dopo aver abbassato il giudizio sulla Francia, sull'Austria, sull'Italia, su mezza Europa. Sta di fatto che per Mario Draghi la crisi è molto grave, e Mario Monti, che ieri ha incontrato i partiti politici, no? I leader dei partiti politici, ABC, Alfano, Bersani, Casini, ormai i giornali li hanno ribattezzati così, e quando poi ci sono questi marchi, compariranno anche nei titoli. Sappiate che quando vedete nei titoli ABC sono Alfano, Bersani e Casini, cioè i leader dei tre maggiori partiti. Monti, che ieri li ha incontrati a pranzo e li ha disposti così, no? Con la sua ironia molto molto fredda: vi ho messi come siete in Parlamento, Alfano a destra, Bersani a sinistra e Casini in centro, questo nel pranzo. Ebbene, Monti ha detto ci vogliono più sforzi da Berlino. Un'altra intervista fatta da Mario Monti, questa volta al Financial Times, due giorni dopo aver fatto un'intervista a un giornale tedesco e due giorni dopo l'abbassamento delle agenzie di rating Standard & Poor's all'Italia. L'intervista al Financial Times è l'invito ancora una volta a Berlino: altrimenti, se non faranno più sforzi a Berlino, ci saranno forti contraccolpi nei paesi in crisi. Un Mario Monti che però ha dovuto scontare un no da parte di Sarkozy. Che ha fatto Sarkozy? Ha annullato di fatto l'incontro del vertice A3 a Roma con la Merkel, appunto, anche del 20 gennaio. Questa azione di Sarkozy, con Libero che titola i no di Monti e Sarkozy, ora la Merkel è più sola. Sta di fatto che, insomma, la situazione economica è molto molto seria. Monti è riuscito a ottenere dai partiti una sorta di patto per l'appoggio e per avere una mozione comune anche per quel che riguarda il trattato europeo, una mozione unitaria di PDL, PD e Terzo Polo sulla crisi. Il testo sarà scritto dai partiti in stretto raccordo con il ministro delle politiche europee Moavero, ha fatto sapere il leader del Terzo Polo Casini. Insomma, partiti che sembrano sostenere Monti in questa situazione di crisi, anche se il retroscena della stampa di Carlo Bertini e Ugo Magri a pagina 13 comprende anche questa frase del convitato di pietra, vale a dire Silvio Berlusconi, che non è di fatto più il leader del partito, nel senso che va Alfano a trattare, ma è chiaro che lo è ancora, se è vero che da giorni, raccontano Bertini e Ugo Magri, Berlusconi fa sapere In 10 minuti potrei mandare a casa il governo. Monti non ha parole, non replica su questo. Alfano, quando lo vede, rassicura su tutti, dice che Silvio è stato frainteso. Anche il Cavaliere è convinto che si debba arrivare al 2013. La lealtà del PDL è fuori discussione. Ecco dunque capitolo archiviato, ma certo c'è questa frase che pare Berlusconi dica più o meno a tutti: potrei far cadere Monti come e quando voglio in 10 minuti. E Monti intanto deve fronteggiare l'ira di molti esponenti delle professioni sul tema liberalizzazioni, di questo dopo il traffico. Avete sentito anche blocchi, proteste, i benzinai sono coloro che, la categoria che ora si mostra più agguerrita. Benzinai in guerra, 7 giorni di scioperi annunciati, e così si inizia il tema liberalizzazioni. Oggi Mario Monti incontrerà i tassisti e noi avremo ospite uno degli esponenti storici, il duro e puro Bittarelli dei tassisti, alle 8:20. Incontreranno, credo, oggi pomeriggio Monti. Titola pagina 16 Sole 24, il Corriere della Sera: avvocati, benzinai e tassisti il giorno della grande protesta. Mentre il Sole 24 Ore, sul tema liberalizzazioni, questa parolina magica ormai sulla bocca di tutti, dedica varie pagine. A pagina 14 e 15 intanto una fotografia vera e propria di tutte le categorie: agronomi, agrotecnici, architetti, parto dalla A per arrivare fino a veterinari della V. Tutte le categorie di fronte a questo tema. E tra l'altro a questo tema è dedicato l'editoriale a firma Luigi Guiso e Fabiano Schivardi. Concorrenza vuol dire equità, questo è il titolo in prima pagina. Sul tema liberalizzazioni, come spesso accade in Italia, scrivono gli autori, quando si affronta un problema c'è sempre qualcuno che si alza e dice: sì, vero, però il problema è un altro. È questa la reazione di alcuni commentatori e politici in reazione al programma di liberalizzazione del governo. Premesso che non c'è contrapposizione tra liberalizzare le professioni e rendere più competitivo il settore dell'energia, vanno fatte entrambe le cose. In che senso liberalizzare l'ENI, cioè separare ENI e Snam Rete Gas, è più equo che liberalizzare i notai? Chi perde dalla liberalizzazione dell'ENI è l'azionista, perché se si diluisce il potere di mercato di ENI, il valore della sua azione ne risente. Ma in una grande azienda quotata ci sono tanti azionisti, molto probabilmente più piccoli di tanti notai e forse non dissimili da tanti farmacisti. È più equo iniziare a far pagare il costo della liberalizzazione a questi piccoli azionisti o ai piccoli farmacisti? Si obietterà che c'è una differenza: mentre un tassista, un farmacista, un notaio hanno una quota rilevante della loro ricchezza investita nell'attività, l'azionista di una grande azienda da liberalizzare detiene solo una piccola quota, perché nessuno ripone tutti i suoi risparmi nelle azioni di una sola impresa. Quindi il costo che sopporta, ad esempio, un tassista a seguito della liberalizzazione, la perdita di valore della licenza che ha acquistato sul mercato, è elevato relativamente alla sua ricchezza, e questo lo si può reputare iniquo, vero? Questo problema, perlomeno nel caso dei tassisti, va affrontato proponendo forme di compensazione, ma per altre categorie è più arduo sostenere questa tesi. Ad esempio, non si applica ai notai che non hanno acquistato nessuna licenza ma vinto un pubblico concorso, il costo della cui preparazione è abbondantemente ripagato con gli extra profitti ottenuti in un paio d'anni di esercizio della professione. Insomma, vedete, ogni professione ha bisogno forse della liberalizzazione ad hoc. Sta di fatto che il tema è sul tavolo e le categorie sono arrabbiatissime. Certo, poi uno legge la fotografia. La fotografia, e già mi prudono le mani per il nervosismo. La fotografia che ieri è stata data dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia sulle rilevazioni dei redditi netti delle persone fisiche nel 2009 legate agli studi di settore. E questa fotografia dell'Italia è sintetizzata da questo titolo del Corriere della Sera: tassisti e orefici guadagnano meno degli operai. Ah, la classifica dei redditi: dai 281.000 euro di un notaio ai 2.500 di un pescatore. E allora, che cosa hanno in comune panettieri, psicologi, ristoratori, agenti immobiliari, giornalai, baristi, pasticceri, orologiai, gioiellieri, tassisti, parrucchieri, venditori di barche? Due cose: La prima sono lavoratori autonomi, la seconda dichiarano di guadagnare meno di un operaio, in media. I gioiellieri, i tassisti, gli psicologi, i ristoratori, gli agenti immobiliari dichiarano meno di un operaio. Anche Repubblica, tassisti, orafi e baristi, quasi poveri, la fotografia dell'Italia che evade le tasse. L'ha detto Repubblica, eh? Io ho letto il titolo. La fotografia dell'Italia che evade le tasse. Lo chiederemo anche al nostro rappresentante dei tassisti, insomma. Come mai dichiarano così poco, circa una media di 14.000 euro? Chi fa una professione che rende una media di 14.000 euro l'anno? Allora, c'è ancora la politica, si concentra sulla Lega. Lo scontro all'interno della Lega, negato ovviamente pubblicamente, ha visto, secondo i giornali, secondo il retroscena, un Bossi pronto a dimettersi. Mi dimetto, avrebbe detto, dopo la fatwa poi rientrata contro Roberto Maroni, così l'ha definita Maroni, cioè il divieto di incontrare i leghisti, poi rientrato, e che Bossi dice non l'ho voluto io, è una cosa che hanno voluto altri. Bossi avrebbe detto sono pronto a dimettermi, si vogliono prendere, non si capisce bene chi, il partito. Mi dimetto da segretario, il partito non è più con me, ma poi insomma ha smentito, sarebbe stato uno sfogo. La cronaca, giusto per chiudere, c'è cronaca giudiziaria con l'arresto di un ex assessore che però si è dato alla fuga, ex assessore della Lombardia, accusato di corruzione, la bufera sulla regione Lombardia, ci sono anche dei pentiti che dicono abbiamo pagato le vacanze al governatore Formigoni, che smentisce. E poi per la cronaca c'è molto anche su questo marocchino che è stato trovato impiccato, uno dei killer dei cinesi uccisi, padre e figlioletta di 9 mesi, e anche i sospetti che sia stata una vendetta della mafia cinese. Questo lo trovate soprattutto sul Messaggero in prima pagina.